Io vi voglio ringraziare perché avete scelto di essere qui. È chiaro, nessuno si è trovato qui per caso, è stato teletrasportato stamattina dal proprio letto qui in questa sala, ma ognuno di voi ha proprio preso la decisione di non essere da qualche altra parte, di non passare questo tempo con qualche altra persona o facendo qualche altra cosa, ma avete scelto, abbiamo scelto di essere qui. Ed è una cosa che io non riesco a dare per scontato e nessuno di noi dovrebbe farlo. E vi voglio dire che avete fatto la scelta migliore. Quanti lo sanno? Quanti ne sono consapevoli? Bellissimo, e non avete fatto la scelta migliore perché questa sala è bella, perché chi ti sta accanto è bello ed è bravo ed è simpatico e non potresti fare a meno di stare accanto a lui o a lei, ma hai fatto la scelta migliore perché Dio oggi vuole parlare al cuore di ognuno di noi e l'ha già fatto, l'ha fatto abbondantemente questa mattina. Non so voi, ma io canto dopo canto ero sempre più distrutta, cioè, ero sempre più distrutta nel senso più estasiata, più meravigliata, più in adorazione di quanto è grande, di quanto è buono il nostro Padre Celeste. E Dio non ha finito, vuole continuare a parlare ad ognuno di noi. E oggi lo vuole fare attraverso una storia che si trova nel Vangelo di Giovanni, che molto probabilmente conosciamo, molto probabilmente abbiamo letto tante tante volte, ma quanti possono dire che ogni volta che leggiamo la stessa storia nella parola di Dio, che abbiamo letto magari 20 milioni di volte, ogni volta che le leggiamo ci dice qualcosa di nuovo? Quanti hanno sperimentato questo? Perché? Perché la parola di Dio è vivente, amen? E noi un obiettivo abbiamo quando veniamo qui: adorare Dio, ce ne abbiamo due, adorare Dio e conoscerlo sempre di più. E come lo conosciamo? Attraverso la sua parola. La sua parola ci fa conoscere chi è Dio, qual è la sua volontà, perché ha creato me e te, e poi ci fa conoscere anche di più di chi noi siamo, di quello che è il nostro posto su questa terra, in questa società, nella nostra famiglia, nel nostro posto di lavoro, come Dio può servirsi di noi in ogni luogo e con ogni persona che ci sta attorno. E quindi oggi vogliamo conoscerlo di più e vogliamo conoscere noi stessi di più alla luce della sua verità. Ci state? Siete pronti per... No, scherzo, no, sono solo forse 7 pagine, però vi prometto che rimarrò nei tempi. Ci credete? Bravo Giovanni, io non ci crederei. Hai detto no? C'hai ragione, perché forse... Ah, Luigi è stato, è perché Luigi mi conosce un po' di più. Ah, Giovanni ha detto sì. Bene, vogliamo immergerci da subito e insieme leggiamo Giovanni al capitolo 5, 9 versi, dall'1 al 9. Potete leggere con me, i versi sono proiettati. E dice così: dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina, detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo, che sarà il nostro amico questa mattina, c'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora, quel giorno era sabato. Quanti conoscono questa storia? Quanti l'hanno letta almeno una volta? È una storia che conosciamo bene e che ha dell'incredibile. È una storia che può sembrare molto lontana da quella che è la nostra realtà. È una storia che è successa più di 2000 anni fa e noi non siamo a Gerusalemme, giusto? Siamo a Modugno. E a Modugno le persone vanno in piscina per farsi una nuotata, non certamente per essere guarite. È una storia così lontana da quella che può essere la nostra quotidianità, giusto? È vero? Però io la chiamo una storia microcosmo. Cosa voglio dire? Voglio dire che partendo da un evento specifico, questa storia rivela delle verità e delle realtà universali. Parte da una storia che è successa a Gerusalemme, che è successa più di 2000 anni fa, che è successa ad un infermo del quale non sappiamo neanche il nome, ma da quel contesto così specifico, così lontano, la parola di Dio ci rivela delle realtà, delle verità che sono valide a Modugno, che sono valide nel 2018 e che sono reali e che possono cambiare la vita a me e a te questa mattina. Lo vogliamo capire un po' di più? Lo vogliamo capire un po' di più? Ok, ragazzi, io sono diventata una maestra elementare, quindi delle scuole elementari. Ho bisogno proprio di feedback, no? Cioè ho bisogno proprio che voi mi rispondiate. Molto spesso ai bambini devo dire: basta, rispondimi un po' di meno, dammi il tempo di parlare. Ecco, facciamo che succeda la stessa cosa qui? Ok, allora vediamo. Vogliamo capire di più di questa storia? Ok, pensavo che Cristian si stesse alzando, stesse facendo la standing ovation. Un po' meno entusiasmo, Cristian, va bene comunque. Verso 1 e 3, dopo queste cose ricorreva alla festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Verso 3, sotto questi portici, vicino a questa piscina, giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché dopo l'agitarsi dell'acqua sarebbe successo un miracolo per il primo che avrebbe raggiunto la piscina. Ora, probabilmente noi non siamo circondati da ciechi, da zoppi, ma viviamo in un mondo che è sofferente. Viviamo in un mondo che è perso. Viviamo in una società che è corrotta. Probabilmente non abbiamo degli amici ciechi fisicamente, ma abbiamo degli amici che non riescono più a vedere. Dov'è la speranza? Qual è la verità? Dove devo andare? Con chi devo stare? In chi devo credere? Probabilmente non abbiamo delle persone nella nostra vita che sono paralitiche fisicamente, ma abbiamo delle persone, conosciamo delle persone che hanno le emozioni paralizzate, che hanno i pensieri che non si muovono, che sono bloccati in una determinata situazione, in un determinato modo di pensare e non riescono a superarlo. Gesù per tutti, l'evento in piazza che faremo, ogni evento con crescere di giovedì in giovedì che facciamo, tutte queste cose vogliono essere la risposta per i ciechi, per gli infermi, per i paralitici che ci circondano. Amen? Viviamo in una società che è impotente, ma senza parlare della società, più da vicino, viviamo in una famiglia, viviamo in una scuola, in un posto di lavoro, che non si, le persone in questi contesti non si possono salvare da sole. E sono perse. E aspettano che qualcosa accada. Aspettano che quel miracolo succeda. Probabilmente non sanno né come, né dove, né quando, e non sanno neanche che stanno aspettando, ma la realtà è che hanno bisogno di Gesù, che non si possono salvare da sole, e che Gesù è la risposta, e che noi siamo coloro che possono portare la risposta ad ognuna di queste persone. Amen? Forse io sto parlando della nostra famiglia, del nostro posto di lavoro, però probabilmente sei proprio tu che ti trovi in questa condizione. Se tu guardi la tua vita, puoi riconoscere che quel cieco sei proprio tu. Non vedi speranza, non vedi via d'uscita, non vedi soluzione. Che quel paralitico sei proprio tu. Che stai vivendo una situazione nella tua famiglia, nelle tue relazioni, nei tuoi stessi pensieri, nelle tue stesse emozioni, che sono ormai ferme, bloccate da così tanto tempo, e sembra che niente possa portare una soluzione. Ti sei quasi abituato. Forse il tuo corpo è malato e sembra che quella guarigione si stia facendo attendere un po' troppo, e ci stiamo un po' stancando di pregare. Ci stiamo un po' stancando di credere che il miracolo è sulla via d'arrivo. Forse il tuo cuore è depresso. Sei triste. Ti senti oppresso. Non riesci a gioire come magari facevi un tempo. Questo è un posto, la Chiesa è un posto dove non devi fare finta che tutto stia andando bene necessariamente. Non serve. Ti blocca ancora di più. Questo è un posto, la Chiesa è un corpo, un organismo vivente, dove tu puoi venire, puoi entrare da quella porta e puoi dire: io proprio non ce la faccio più. Io veramente sono venuto qui solo per ubbidienza, perché io neanche ci credo più in quello che stiamo dicendo. E Gesù ascolta quella preghiera, Gesù ascolta quella confessione, e davanti a quella confessione sincera, onesta, Lui opera, Lui agisce. Quanti hanno bisogno oggi che Gesù faccia qualcosa nella propria vita? Posso vedere le mani? In qualsiasi aspetto, qualsiasi circostanza, il riconoscere che abbiamo bisogno dell'intervento di Gesù è fondamentale, perché ci mette nella posizione di chiederglielo, di arrenderci e di dire: Gesù, io posso fare finta, ho fatto finta per un bel po' di tempo, perché mi vergogno un po' a dire che sono sempre gli stessi problemi, che sono sempre le stesse dinamiche, che è sempre lo stesso peccato, che è sempre lo stesso vizio che sto combattendo. Però tu lo sai, e io oggi voglio che tu faccia qualche cosa. Sapete, spesso viviamo in una situazione di bisogno, ma quello che facciamo è che teniamo le braccia incrociate per orgoglio, per paura di essere delusi, per diffidenza, o semplicemente perché non ci crediamo più. Il fatto è che il cambiamento, la guarigione, la restaurazione avviene nel momento in cui, ascoltatemi bene, noi ci rendiamo vulnerabili. Nel momento in cui, da questa posizione, apriamo le nostre braccia e diciamo: Gesù, io ho bisogno del tuo intervento. Io ho bisogno che tu cambi qualche cosa. E sono disposta ad essere sincera con te, ad essere sincero con il mio fratello, con la mia sorella, perché io voglio guarire, io voglio che tu faccia qualcosa. E in questa storia che abbiamo appena letto, troviamo un uomo che era proprio nella stessa posizione nella quale ci troviamo noi oggi. Aveva bisogno dell'intervento di Gesù e si trovava nel posto giusto, e tu sei nel posto giusto. Si trovava nel momento giusto e noi siamo qui nel momento giusto, e si trovava davanti alla persona giusta. Si trovava davanti a Gesù. Lo leggiamo, lì c'era un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? Da notare, ed è una delle cose che mi piace di più di questa storia, è che non è il paralitico che cerca di attirare l'attenzione di Gesù. Era un po' difficile, effettivamente non si poteva muovere, ma che ci sto pensando. Però poteva gridare, poteva fischiare, insomma poteva trovare il modo. Sappiamo che quando vogliamo qualcosa, il modo per ottenerla lo troviamo. E quindi non è stato il paralitico ad attirare l'attenzione di Gesù, ma è stato Gesù che si è avvicinato al paralitico. È stato Gesù che si è reso disponibile, che si è presentato, che ha creato un ponte, ha iniziato una relazione, un rapporto con questo paralitico. Non è meraviglioso? È Gesù che si avvicina e dice: ehi, io sto qua, ti vuoi rendere vulnerabile? Vuoi che io intervenga nella tua vita? Basta fare finta, non fare finta con me, non serve. È incredibile, quanti piace questo punto? Bene, grazie Clarissa che hai alzato la mano, sono contenta, questo punto l'ho scritto per te. E Gesù si avvicina a questo paralitico e gli fa la domanda più incredibile che potesse mai fargli. Gli dice, che cosa gli domanda? Vuoi essere guarito? Ora, io ai bambini, dalla prima alla quinta elementare, spesso anche agli adulti lo dico, quando insegno qualcosa, quando sto per incominciare la mia spiegazione, dico: bambini, non ci sono domande inutili, non ci sono domande troppo inappropriate o troppo stupide. Quindi, quando avete una domanda, alzate la mano e fatela. Ora, quanti sanno che ci sono domande inutili? Cioè, io proprio dico sempre una piccola bugia a questi miei bambini e me ne rendo conto quando nel bel mezzo della lezione c'è Valerio che alza la sua mano e io mi entusiasmo e dico: che bello, mi sta seguendo e quindi avrà una domanda. Dimmi Valerio, che domanda hai? Maestra, mi puoi allacciare le scarpe? Quella è una domanda che diciamo è fuori contesto. E molto spesso non sono le domande che pongono i bambini, sono delle affermazioni così che lo vogliono dire in quel momento, anche se non c'entra niente. Dimmi Letizia, che c'è? Maestra, lo sai che ieri si è tolto il dente? E la lezione va avanti così. Ma tornando a questa storia, questa domanda: vuoi essere guarito? Sembra la domanda più inutile che Gesù potesse mai fare ad un paralitico che stava vicino a una piscina in attesa di un miracolo. Ma scusa, ma che domanda è vuoi essere guarito? È chiaro che voglio essere guarito. Eppure noi sappiamo che Gesù non fa mai domande inutili. È come se Gesù sentisse le nostre preghiere, sentisse le nostre suppliche, giorno dopo giorno, vedesse il dolore che stiamo provando in determinate situazioni, vedesse i nostri problemi, le nostre sfide, i nostri combattimenti e ci dicesse: ma tu vuoi stare meglio? Ma tu vuoi che io faccia qualcosa? Vuoi essere guarito? È una domanda che è un po' incredibile, ma Gesù non fa domande inutili. Sulla parola di Dio non c'è mezza parola che è buttata lì così. Non esiste mezza parola che è un errore, una distrazione o un qualcosa in più. Gesù chiede al paralitico: vuoi essere guarito? E la parola guarito, ho fatto un po' di ricerche, dal greco è ugines, e si può tradurre con l'aggettivo: vuoi essere completo, vuoi essere restaurato, vuoi essere rigenerato, vuoi essere reso una persona, vuoi essere resa una persona nuova? Questa è la domanda che Gesù stava facendo. Andava molto oltre della guarigione fisica. Gesù stava domandando al paralitico: ehi, vuoi essere completo? E perché la stava domandando? Perché, ascoltatemi bene, Gesù può guarire chiunque, da qualunque problema, da qualunque malattia. Gesù può operare nella vita di chiunque, ma non tutti vogliono essere realmente, completamente guariti, cambiati e restaurati. Gesù può fare un miracolo nella vita di tutti, ma non tutti, sotto sotto, se siamo onesti, vogliono essere davvero cambiati, guariti, restaurati dal tocco di Gesù. Gesù sa quanto è facile che ci siano delle persone che da una parte vogliono il cambiamento, vogliono la svolta, vogliono la risposta alle loro preghiere, ma dall'altra stanno comode in fondo nella situazione che stanno affrontando. Perché per alcuni aspetti fa comodo. Gesù sa quanto è facile che ci siano delle persone che vengono in chiesa domenica dopo domenica e adorano Gesù domenica dopo domenica e ascoltano predica dopo predica, ma non hanno la minima intenzione di cambiare una mezza virgola nella propria vita. Ecco che Gesù domanda: ma tu vuoi essere guarito? Vuoi essere reso completo? Vuoi veramente che io operi nella tua vita? È come quando ogni lunedì diciamo: io voglio dimagrire. È chiaro, tutti vogliamo dimagrire, giusto? Le donne, specialmente la prova costume, non ne parliamo neanche. Però non voglio andare in palestra, però i carboidrati sono troppo buoni, non voglio fare questa rinuncia. Un giorno mi si è presentata una persona e mi ha detto: Noemi, io voglio fare questo esame, voglio prendere un C1, che è un livello di inglese molto alto, per il quale bisogna studiare duro. E dice: Noemi, io so che tu sei una brava insegnante, voglio fare questo esame, lo voglio fare tra 3 settimane massimo, però guarda, io non ho nessuna intenzione di studiare. Ci sono tutti i presupposti per passarlo questo esame. Quanto è vero nella nostra vita spirituale? Quanto è vero? Quanto è presente questo atteggiamento nelle nostre relazioni, davanti a quella malattia, davanti a quel vizio, davanti a quella circostanza? No, io voglio che cambi, voglio essere guarito, voglio, certamente, però non ho la minima intenzione né di chiederlo a Dio, né di arrendermi a Dio, né di essere vulnerabile nei confronti di Dio, né di ubbidirgli eventualmente quando mi dice di rinunciare a determinate cose. La realtà e ascoltatemi molto bene in questo, è che Dio è molto più interessato a cambiare i nostri cuori piuttosto che a cambiare le nostre situazioni. Il vero miracolo, il vero cambiamento, la vera guarigione non è sempre, e nella maggior parte dei casi non è quasi mai, la risposta, la soluzione del problema, ma è quello che Dio fa nel nostro cuore, nel nostro atteggiamento, nella nostra statura spirituale attraverso quel problema. E oso dire grazie a quella situazione, grazie a quella difficoltà. Questo vuol dire, ma vuoi essere veramente guarito? In altre parole, Gesù dice, allora, due sono le domande. Vuoi che io risponda alla tua preghiera con una soluzione? Oppure vuoi che io ti trasformi in una persona migliore? Vuoi che io risolva quella situazione economica direttamente, ti faccio vincere la lotteria? Oppure vuoi che nel bisogno io ti insegni a fidarti di me? Nel bisogno io ti insegni ad arrenderti a me? Nel bisogno io ti insegni ad essere generoso e a dare anche quando non hai? Davanti a quella malattia, Gesù dice, ma vuoi essere guarito? Nel senso, vuoi che io istantaneamente ti guarisca? Oppure vuoi che io ti renda una persona migliore? E che io non solo, o magari prima di guarirti fisicamente, io guarisca il tuo cuore, io guarisca la tua incredulità, io risolva i tuoi dubbi, io rafforzi la tua fede. Questo è il nostro Dio. Dio non è uno che risolve il problema. Dio è uno che guarisce il cuore. Nelle nostre relazioni, mamma mia, quanto sarebbe molto più facile che Dio cambiasse tua moglie. Oh, quanto sarebbe più facile che Dio calmasse i tuoi figli e li rendesse meno ribelli e più ubbidienti. Però quanto è più efficace che Dio ti renda, se deve cambiare il marito, che Dio ti renda una moglie o un marito migliore, una mamma più paziente, un padre più presente. Gesù non vuole fare il miracolo soltanto e dare la risposta alla tua preghiera. Gesù vuole fare molto di più, molto di più. Sapete, io negli ultimi tempi ho affrontato una situazione che mi ha fatto stare molto male. E questa situazione ha influenzato negativamente le mie relazioni, la mia situazione in famiglia, anche la mia situazione ministeriale. E quindi io, cioè, mi sono ritrovata proprio come questo paralitico davanti a Gesù e ho fatto delle preghiere che più ferventi, veramente, ragazzi, cioè, molto ferventi. Signore, ti prego, opera. Signore, ti prego, fai qualcosa. Signore, ti prego, dove sei? Perché poi c'erano le diverse preghiere, no? Allora c'era la preghiera, quella proprio che tu ti arrendi, che chiedi aiuto, e poi c'è la preghiera che sei proprio imbestialita. Signore, ma perché non mi ascolti? Opera, fai qualcosa. Tu sei già venuto. Sei già venuto. Ok, perfetto, suonerai un bel po'. Fai qualcosa, ti prego. E Gesù mi ha chiesto, noi mi vuoi guarire davvero? E mi ha detto, vuoi guarire anche se la guarigione ha una forma diversa da quella che tu ti aspetti. È incredibile. E io ho detto, disperato, sì, fai tu, basta che fai qualcosa. Fai tutto quello che puoi e che vuoi. E io, quando ho detto che mi sono resa vulnerabile, ho detto, sì, Signore, fai tu. Mi sono resa conto di quanto Dio non stesse operando come volevo io nella circostanza, ma stesse lavorando nel mio cuore. E quindi ho imparato ad arrendermi. Ho imparato che non posso aggiustare tutto. Ho imparato a perdonare. Ho imparato ad aspettare. E oggi io posso dire che la mia statura spirituale è più grande. E Dio vuole fare la stessa cosa con te. E lo vuole fare come dice Lui. Il paralitico, alla domanda vuoi guarire? Facciamoci caso, non ha detto sì. Non ha detto neanche no. Ha detto non ci sta nessuno che mi mette nella piscina. Perché? Perché lui aveva visto quel miracolo succedere di anno in anno per 38 anni. Aveva visto quel miracolo che doveva succedere in una determinata maniera. Cioè che l'angelo arrivava, le acque si muovevano. Dopo quelle acque, il primo, ripeti con me, il primo che arrivava era guarito. E quel modo, quel miracolo l'avrebbe sempre fatto sentire perdente, perché come doveva arrivare alla piscina? Non era possibile. Però Gesù aveva un miracolo diverso per lui, aveva un miracolo specifico per lui ed era diverso, aveva una forma diversa. E quindi la domanda è: vuoi guarire anche se la guarigione ha una forma diversa da quella che tu stesso pensavi? Sapete, c'è questa componente di arrivare per primo, no? L'abbiamo ripetuto insieme. Chi arriva per primo è guarito, io per primo non arrivo mai. E quante volte, cioè io me lo immagino questo povero paralitico per 38 anni, che quando vedeva l'angelo si sforzava, magari rotolava, magari strisciava, magari urlava per chiedere aiuto e non ci arrivava mai. Quante volte noi nelle nostre situazioni cerchiamo la soluzione con le nostre forze e ci sforziamo e leggiamo la Bibbia di più e preghiamo di più e tutto ad un tratto andiamo in chiesa sia la mattina che la sera perché vogliamo quasi meritarci quel miracolo. Ma questo è una religione, non è una relazione. Gesù che è andato, ed è Gesù che aveva un miracolo diverso, diverso per lui. Ora vi risparmio il bruco, la farfalla, ma è quello il concetto. Non dobbiamo diventare farfalle per poi ricevere l'intervento di Dio. È Gesù che si è avvicinato al paralitico, è Gesù che aveva un miracolo fatto a sua misura, nel tempo giusto, nel modo giusto. È Gesù che ha fatto tutto, il paralitico si è reso solo vulnerabile. Il paralitico non lo sapeva ancora, ma Gesù aveva tutto un altro miracolo in mente per lui. Un capitolo prima, sentite questo che è troppo bello, un capitolo prima in Giovanni 4. Che succede in Giovanni 4? Gesù al pozzo con la samaritana. Chiesa, leggiamola la Bibbia per piacere. Gesù al pozzo con la samaritana. La samaritana dice: ma tu, ma perché? Io non posso parlare. Bidi bim, bidi bam. tutto si risolve quando Gesù dice: io sono l'acqua. Chiunque beva di quest'acqua non avrà mai più sete. Un capitolo dopo, il miracolo standard era che le persone dovevano correre all'acqua della piscina. Gesù si avvicina al paralitico. Non è il paralitico che doveva correre all'acqua della piscina, era l'acqua. L'acqua che non rende mai più assetati, che si era presentata al paralitico. Questo è il nostro Gesù. Questo è Gesù che vuole operare nella tua vita molto di più che solo risolvendo il tuo problema. Ma vuole operare guarendo, trasformando, completando il tuo cuore. Questa è la verità. Gesù non ti vuole fare stare meglio. Gesù ti vuole rendere una persona migliore. E questo lo può fare solo Lui. Solo ed esclusivamente Lui. Le ultime parole di Gesù quali sono state? Alzati. Cioè, avete notato che neanche ha risposto Gesù? Molto spesso secondo me fa così alle nostre preghiere, perché stiamo pregando le preghiere sbagliate, stiamo presentando un problema sbagliato, non stiamo presentando il vero problema. E Gesù neanche risponde. Non amate quando Lui fa così? Non c'è nessuno che mi porta. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Qualcuno ha detto che non mi ricordo chi l'ha detto, ma il dolore non avrà l'ultima parola nella tua vita. Ed è vero, perché è Gesù che ha le ultime parole nella tua vita, sempre. E le sue ultime parole sono state: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Sono parole di guarigione, sono parole di speranza, sono parole di cambiamento, sono parole di lascia quello che è stato e cambia direzione. Io ho molto di più, e questo va molto oltre che la risoluzione del problema. Questo ha tutto a che vedere con la guarigione del mio e del tuo cuore. Allora io posso capire: alzati, era paralitico, alzati, sì, lo posso capire. Cammina, anche questo posso capire. Prendi il tuo lettuccio, problema. Che significa? Perché? Prendi il tuo lettuccio, oltre che ad essere una bella provocazione nei confronti dei farisei, vi ricordate che abbiamo detto, ed era sabato, ve lo ricordate? Vi ricordate che ho detto che non c'è parola messa così a vanvera nella Bibbia? Prendere il lettuccio non era permesso il giorno del sabato, perché era considerato lavoro. Gesù lì stava facendo una dichiarazione bella e forte, dicendo che la grazia completa la legge, e dicendo che le persone vengono prima delle regole della legge. Ma il punto non è questo, magari ve lo predico un'altra volta questo punto. Quello che vi voglio dire è questo: è che il lettuccio rappresentava tutto quello che era la vita del paralitico prima dell'incontro di Gesù. Rappresentava la sua condizione fisica, rappresentava il suo status nella società, rappresentava il suo dolore, rappresentava il fatto che era isolato. E Gesù dice: alzati e prendilo. Sapete perché? Perché il paralitico non doveva solo o primariamente essere guarito fisicamente. Il paralitico doveva essere guarito da quel lettuccio, da tutto quello che quel lettuccio rappresentava: il suo status, il suo passato, magari i suoi momenti di disperazione, i suoi momenti dove aveva detto: beh, basta, finirà così, ok, me ne faccio una ragione. E noi siamo bravi a dire: a me ne faccio una ragione. Le ultime parole ce le ha sempre Gesù. Allora il mio incoraggiamento questa mattina è questo: non ti accontentare solo di stare meglio, ma che il nostro desiderio possa essere quello di essere delle persone migliori, quello di essere veramente guarite da Gesù, rese complete da Lui. Che nelle nostre preghiere non possiamo semplicemente chiedere l'intervento di Dio come fosse un distributore di soluzioni, ma nelle nostre preghiere rendiamoci veramente vulnerabili. Siamo veramente onesti, chiediamo l'intervento, quello profondo che solo Gesù può operare, perché Gesù non vuole aggiustare le tue situazioni, Gesù vuole guarire il tuo cuore. Amen? Amen? Perché non ci alziamo? Chiudiamo gli occhi. E io voglio pregare per voi, voglio pregare per ognuno di noi. Posso chiedere, ognuno tenga gli occhi chiusi, posso chiedere quante persone questa mattina insieme a me si sono rese conto che per troppo tempo hanno desiderato di stare meglio, ma hanno capito che Gesù e ha un altro piano, ha un altro tipo di miracolo, e vogliono rendersi vulnerabili e vogliono arrendersi a Gesù e vogliono dire: Gesù, anche se la guarigione, anche se il tuo tocco, il tuo intervento ha una forma diversa da quello che io desidero, da quello che io ti esprimo con le mie parole, con le mie preghiere, anche se è diverso, io lo voglio lo stesso, mi arrendo a te. Voglio essere una persona migliore e non solo stare meglio. Posso vedere le tue mani così io possa pregare per te? Stai dicendo che sei disposto a metterti in discussione. Stai dicendo che sei disposto a essere onesto con Dio, a ubbidirgli qualunque cosa Lui ti chieda di fare. Perché? Perché è Lui che è venuto da te per prima e vuole il meglio per te. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per ognuna di queste mani. E tu vedi i cuori. E Gesù, tu sei molto più interessato a guarire i nostri cuori e poi ad aggiustare le nostre situazioni. Per questo io ti prego per il cuore di ognuno di noi, che possa essere arreso a te, che possa essere guarito realmente da te, che possa essere reso completo dalla tua presenza nella nostra vita. Amen. Rimaniamo con gli occhi chiusi. Potete abbassare le vostre mani. E io voglio chiedere a chiunque si rende conto, si è reso conto che ha bisogno di Gesù nella propria vita e non ha mai aperto il proprio cuore a Lui. Se sei venuto qui per la prima volta e non sai neanche il perché ti trovi qui, ma sai che Gesù ha parlato al tuo cuore, sai che Lui vuole guarirlo, vuole perdonarlo, vuole dare una speranza che non hai mai sperimentato prima, io ti voglio dare l'occasione oggi di dire a Gesù: entra nel mio cuore, perdona i miei peccati, io voglio vivere con te e per te. Sapete, qualche tempo dopo Gesù ha incontrato il paralitico nel tempio e gli ha detto: vedo che stai bene, ora va e non peccare più. Perché la guarigione più forte che il paralitico aveva avuto non era nel fisico, era nel suo cuore. Era che aveva capito che c'era un Salvatore di nome Gesù Cristo che lo amava e che poteva intervenire nella sua vita in un modo che lui neanche mai aveva immaginato. Lo stesso vuole fare con te, Gesù. Quindi se non hai mai aperto il tuo cuore a Dio, se magari l'hai fatto, ma è passato tanto tempo e ti rendi conto che non hai vissuto in una maniera gradita a Dio e vuoi riconciliarti con Lui, mentre tutti quanti hanno gli occhi chiusi, io ti chiedo di alzare la tua mano e voglio pregare per te. Grazie. Grazie lì in fondo. Grazie lì in fondo, ti vedo. Grazie. Chiesa, preghiamo. Tu stai dicendo: Gesù, io ho bisogno di te, perdonami. Voglio vivere una vita che ti rispetti, che ti onori. Voglio sentire il tuo amore, voglio avere la guarigione nel mio cuore che solo tu mi puoi dare. Se è questa la tua preghiera, alza la tua mano, bella, alta, in una maniera orgogliosa, perché è la decisione più importante che tu stia facendo e che tu mai possa fare nella tua vita. Grazie, grazie mille. Ok, chiesa, preghiamo insieme, potete abbassare le mani, tutti insieme, ma in modo particolare per chi ha alzato la mano, questa è una preghiera che invita Gesù nel tuo cuore, che gli dà l'autorità di vivere con te per sempre, per l'eternità. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringrazio perché sei vivo. Grazie perché la tua parola mi ha parlato. E io ti chiedo perdono per i miei peccati. Perdonami se ho vissuto lontano da te. E io ti chiedo che tu possa entrare nel mio cuore, possa lavare il mio cuore, lavare i miei pensieri, cambiare le mie azioni, affinché io possa vivere la vita che tu hai preparato per me. Grazie per la vita eterna. Grazie perché ora io starò con te tutti i giorni della mia vita. Amen. Adoriamo Chiesa, adoriamo Dio perché è degno.